gusto che aveva quel gelato, misto fragola, pistacchio e limone. La polvere di terra che muove la bicicletta, il rumore del pallone contro un portone, la magia negli occhi per ogni sorpresa, per un'ora di gioco o mezza fetta della torta raffreddare sopra la finestra. Era il tempo così lento a passare senza freddo. Sono ancora molti i profumi e i sapori che sento da quei giorni di allora. Nella commedia, quelli sono stati passi miei, mie parole sono stati il mio imparare, il mio cadere. Guardo, mi avvicino e sul palco allora c'ero. Ancora molti sogni e le canzoni che mi porto da quei giorni di allora.